Fratelli e sorelle, è giunto il momento di prendervi per mano e recitare la preghierina della buonanotte. Oh! Il biglietto per l'inferno, questo. Prima o poi ci colpisce un fulmine.